Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. I risultati del summit dei capi di Stato europei tenutosi la scorsa settimana a Bruxelles, dove i lavori si sono concentrati su crescita e lavoro, dopo l'accordo sulla vigilanza bancaria raggiunto nella notte fra giovedì e venerdì. Le speranze sfumate della Spagna di poter ridare ossigeno alle proprie banche senza passare per nuove condizioni imposte per nuovi aiuti europei. Le parole del premier italiano Mario Monti, che è tornato a sottolineare dopo il summit la necessità di riforme. E infine la Grecia, dove il governo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Troica sul pacchetto di misure di austerità. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Venerdì 19 ottobre si è chiuso il summit dei capi di Stato europei tenutosi la scorsa settimana a Bruxelles. I lavori dei leader si sono concentrati su crescita e lavoro dopo l'accordo sulla vigilanza bancaria raggiunto nella notte fra giovedì e venerdì. Entro il 1 gennaio 2013 dovrà essere concordata la cornice legale per il nuovo meccanismo di supervisione bancaria. Su questo punto il presidente francese François Hollande non voleva cedere. Alla piena operatività del meccanismo è legata la possibilità del fondo Salva Stati ESM di ricapitalizzare direttamente le banche. È su questo punto che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha però preso la sua rivincita. È confermata la ricapitalizzazione diretta da parte del Fondo Salva Stati, ma non è stata fissata alcuna data. Sono quindi sfumate le speranze della Spagna di poter ridare ossigeno alle proprie banche senza passare per nuove condizioni imposte per nuovi aiuti europei. Nonostante sia uscita dal vertice europeo come la grande sconfitta, almeno per ora, Madrid fa però buon viso a cattivo gioco. E si dice soddisfatta dell'accordo sull'unione bancaria, come afferma Inigo Méndez de Vigo, ministro iberico per gli affari europei, al microfono di Sergio Nava. No, precisamente Spagna, Italia, il governo spagnolo italiano. Al vertice non si è parlato della possibile richiesta di salvataggio della Spagna al Fondo Salva Stati. Per quanto riguarda invece l'accordo sull'unione bancaria, ci soddisfa enormemente, poiché il nostro governo, con quello italiano, è stato tra i maggiori sostenitori di questa intesa al vertice di giugno. L'accordo di oggi metterà nero su bianco che i regolamenti per la supervisione bancaria dovranno essere adottati entro fine 2012, dopodiché si metterà in marcia il meccanismo europeo di supervisione nel corso del 2013. È ciò che chiedevamo. Questo è buono per la Spagna, l'Italia e l'Europa. Siamo enormemente soddisfatti del risultato. Non c'è alcun ritardo. Non si può pensare che un meccanismo europeo di supervisione bancaria si adotti un giorno ed entri in vigore il giorno dopo. E il giorno dopo ancora che la BCE stia già vigilando. Serve tempo. Noi siamo molto contenti di questo accordo, come siamo contenti della collaborazione tra Spagna e Italia. Sulla ricapitalizzazione bancaria non siamo preoccupati. Abbiamo fatto un audit delle nostre banche. Il nostro sistema finanziario è molto solido. Ci sono problemi specifici su alcune banche, ormai chiariti, e c'è un'apertura di linea di credito da parte europea. Io credo che la prima tranche di aiuti europei alle nostre banche arriverà presto. Siamo soddisfatti. Crediamo che si vada nella giusta direzione e che l'Europa stia rispondendo. Al revés, siamo soddisfatti e crediamo che le cose vanno in buona direzione e che l'Europa sta rispondendo. In ogni caso le acque si sono calmate, o almeno il presidente della Unione Europea, Herman Van Rompuy, ha usato questa espressione per dare conto dei punti positivi sulla stabilità della zona euro, dimostrata dalla riduzione degli spread sul ripristino della fiducia. Oggi la discussione è stata incentrata su due temi, la crescita e l'occupazione. Importanti progressi sono stati fatti, ma restano ritardi nel calendario. Sicuramente la situazione circa la crescita e l'occupazione resta inquietante. Quest'anno avremo quasi una stagnazione nel complesso della zona euro e, secondo le ultime previsioni, una lieve crescita al prossimo. Ci sono comunque dei punti positivi, soprattutto riguardo la stabilità della zona euro. Si nota soprattutto guardando gli spread, che stanno scendendo in modo molto significativo in tutti i paesi dell'area euro. È il segnale migliore di una certa calma ritrovata. Vediamo inoltre una certa convergenza circa i deficit pubblici, la competitività e altri indicatori macroeconomici che mostrano un certo equilibrio. Bisogna ammettere invece che sulla crescita e sull'occupazione gli indicatori divergono e occorre dunque lavorare. Là, les indicateurs sont divergence. Et donc il faut y travailler. Sentiamo ora il resoconto dell'inviato di Radio 24 a Bruxelles, Sergio Nava, appunto raccolto nel pomeriggio di venerdì 19 da Sebastiano Barisoni. Le decisioni

sull'altra cosa che è carente nelle politiche economiche, molto più della disciplina di bilancio a questo punto, cioè le riforme strutturali. Per Mario Monti, poi, non era ovvio che le conclusioni del summit europeo fossero approvate alla unanimità. Sentiamo perché. Sono conclusioni che sono state, come avviene per definizione, se no non diventerebbero conclusioni, non nascerebbero approvate all'unanimità. Ma non era affatto ovvio, infatti abbiamo impiegato ieri sera fino alle 3, credo, per arrivare a questa conclusione di consenso. Non era ovvio. Per esempio, alcuni stati membri avrebbero preferito lasciare indeterminata la data di partenza della supervisione unica e invece c'è l'obiettivo di trovare un accordo sul quadro legislativo entro il 1 gennaio 2013, quindi tempi molto stretti. Poi i lavori sull'attuazione operativa si svolgeranno nel corso del 2013. Quindi non manca più moltissimo tempo alla messa in opera, up and running, di un sistema di vigilanza unitario. Per il Premier la ricapitalizzazione diretta delle banche ci sarà non appena sarà stabilito un meccanismo di vigilanza unico. La ricapitalizzazione diretta delle banche, nel pieno rispetto della dichiarazione del vertice della zona euro del 29 giugno, allo scopo di spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano, potrà avere luogo non appena sia stato istituito un efficace meccanismo di vigilanza unico. E quindi noi vediamo che, malgrado lettere scritte da magari 3 ministri delle finanze nelle settimane scorse, viene confermato che ci sarà questa ricapitalizzazione diretta delle banche e che questa avrà luogo non appena sia in opera il sistema unitario di vigilanza. Infine Mario Monti in conferenza stampa ha anche riferito quanto emerso in sede del summit dei leader europei in merito alla posizione greca. Sentiamo. Non è certo la prima volta che il Consiglio europeo si occupa della Grecia, ma in questa occasione il bilancio positivo c'è ed è stato sottolineato. Si è stabilito in modo definitivo che nessuno pensa né chiede di escludere la Grecia dall'Eurozona né di metterla in una posizione in cui si auto-escluda. Si è constatato lo sforzo molto notevole fatto su impulso del governo greco dal popolo greco, il notevole progresso realizzato per rimettere sulla carreggiata il programma di aggiustamento che aveva subito delle lacune e dei ritardi, e viene quindi dato atto sia del disagio sociale che evidentemente tutto questo ha comportato, sia però al tempo stesso dei progressi che si sono realizzati verso il risanamento della Grecia, verso la sua messa su un'orbita più competitiva e circa la determinazione delle autorità di continuare su questo sforzo. Il governo greco ha annunciato di avere raggiunto un accordo con la Troica, Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario sul pacchetto di misure di austerità per rimettere in carreggiata il piano di risanamento del paese, necessario per ottenere una nuova tranche di aiuti da 31 miliardi. Ad annunciare l'intesa il ministro delle Finanze Stornaras. L'intesa deve essere ancora avallata dai dirigenti dei 3 partiti che sostengono il governo. Nel frattempo, mercoledì 24 ottobre, Eurostat ha reso noto che il debito pubblico greco è salito al 150,3% del PIL. Sentiamo Vittorio Darold del Sole 24 Ore al microfono di Sebastiano Barisoni. Il ministro delle Finanze ellenico Yannis Stournaras ha detto che l'intesa sui tagli che la Troica ha chiesto, tagli per 13,5 miliardi che sono ancora su salari e pensioni nella grande parte, 9 miliardi, ci sono per il periodo 2013-2014. Manca ancora però un sì da parte dei 2 partiti della coalizione, che non è cosa da poco.